mojo, mojo, mojo. Resta attonito sul monitor, già perso l'orologio. Un altro goccio e marca il toccio. Alzo il gomito, con la cazzo indomito. Dal primo approccio, stremarsi al nocciolo. Da quando mi colava il mocio, mica mi scoccio. Bevo benzina a canna finché cuocio. Confondo birra e piscio del socio. Donino, drin, da frocio. Rauco, passa, mannaggia, la faccio ci sfocio. Dedico a te tutta la mia vita. Calco il mio compagno che mi ha dato sempre via d'uscita. Dedico a te la gioia infinita. Restare sotto e ridere pure se perdo la partita. Dico a te tutta la mia vita. Calco il mio compagno che mi ha dato sempre via d'uscita. Dedico a te la gioia infinita. Restare sotto e ridere pure se perdo la partita. È la mia psico un collage di fiche da college. Non leggermi un po' di noleggio. Le giuste droghe per i folli tra le folle. Poco ce ne vuole per correre dalle collere. Da stemi pappa molle. Ogni bottiglia l'effetto di mille mole. 40 gradi e sangue bolle. Olè, ho due reni in riserva chiusi in ampolle. Più sviaggi di Ken Follett. La faccia rossa colle. Pupille rotte da strafatto di colle. Lì dedico a te tutta la mia vita. Calco il mio compagno che mi ha dato sempre via d'uscita. Dedico a te la gioia infinita. Di restare sotto e ridere pure se perdo la partita. Dedico a te tutta la mia vita. Calco il mio compagno che mi ha dato sempre via d'uscita. Dedico a te la gioia infinita. Di restare sotto e ridere pure se perdo la partita. Whisky, gin, vodka, liquori, vino, un'altra garrappa. Il fegato in trappola, con la grappa mi si spappola. Cameriere, un altro bicchiere, dai che si strappa. Dai che brindiamo e più che drink son pompe al napa. O vacca boia, bella troia, se le offro da bere non scappa. 5 tequila e te la chiappia, schiaffeggia la sua ogni chiappa. Sarò una schiappa, ma dell'alcolismo c'ho ogni tappa. Coi soci ogni serata, il tutto è di scanso. Dedico a te tutta la mia vita. Calco il mio compagno che mi ha dato sempre via d'uscita. Dedico a te la gioia infinita. Di restare sotto e ridere pure se perdo la partita. Dedico a te tutta la mia vita. Calco il mio compagno che mi ha dato sempre via d'uscita. Dedico a te la gioia infinita. Di restare sotto e ridere pure se perdo la partita. Dedico a te tutta la mia vita. Calco il mio compagno.